Ciao ragazzi, vorremmo ringraziare tutti per la presenza qui oggi. Oggi è una giornata importante, come è stata importante anche ieri, in quanto si ricorda una persona che è venuta a mancare qualche anno fa e che veramente si è spesa un sacco per le controculture in generale e per il fenomeno ultra in particolare. Perciò vi consiglio e vi dico di fare un applauso fortissimo, non come questo, grazie. A Valerio Marti, grazie Valerio. Adesso mi pare che iniziano ad arrivare i lavori, iniziamo a parlare a discutere il fenomeno ultras, di quello che è, di quello che è stato per 40 anni, di quello che ha potuto significare per molti giovani italiani, sia come spazio sociale in quanto palestra di vita per tutti noi, sia in quanto momento e spazio in cui si potevano sfogare determinati istinti e forme di politica e anche forme impolitiche di sfogo appunto sociale e giovanile. Intanto passo la parola a Marco. Allora, innanzitutto vi ringraziamo a tutti per la presenza, tutte le persone che sono venute oggi qui per innanzitutto per ricordare, come diceva Andrea, Valerio Marchi. E se oggi siamo qui vuol dire che è un patrimonio Valerio Marchi che è riuscito a lasciare concretamente. Allora, diciamo che vorrei partire con un'esperienza abbastanza personale. Io ho conosciuto Valerio Marchi tanti anni fa, quando avevo 15-16 anni giocavamo in Cosenza, Roma era una tappa fissa, mentre magari con i treni che da Cosenza arrivavano a Bologna, a Milano, eccetera, eccetera, Roma era una tappa fissa e questo quartiere particolarmente era una tappa fissa. Diciamo i miei compagni di curva che mi hanno preceduto, come Claudio qui presente, anche loro ci hanno trasmesso questo modo di vivere la curva che abbraccia tutti i campi del sociale. Arrivati a Roma, San Lorenzo essendo tappa fissa, incontravamo il buon Valerio, che era uno dei pochi che comunque si metteva a parlare con noi di ultras, di rivolte, di sogni, cioè era veramente bello parlare, ecco perché vorrei partire da un ricordo personale. Ricordo personale lo conobbi perché questa libreria che adesso, cioè, dove adesso mi ci trovo io mi sento legato in doppio filo, da una parte da ultras, dall'altra perché adesso è come se avessi il compito di continuare a spacciare, tra virgolette, contro cultura, contro informazione, dare la voce alle categorie marginali, in questo caso ci metto anche gli ultras, anche noi ultras da sempre, soprattutto non siamo stati ascoltati e non siamo stati capiti, anche e soprattutto dalla sinistra, non solo dalla sinistra partitica, ma anche e soprattutto dalla sinistra antagonista, che si definisce così antagonista. Mi è capitato più volte, penso che ognuno di noi qui, di avere discussioni, incomprensioni con i compagni, perché difficilmente il movimento ultra, la controcultura ultra è stata capita. E Valerio era uno di quei pochi che già da allora ti ascoltava, ti insegnava tante cose. Io ricordo, gli portavo i tantami, che con quella canzina il giornale autoprodotto della nostra curva. Ogni volta, magari anche per una scemenza, si apriva un discorso grandissimo e arrivavamo a parlare di tutto e di più. Questa sua capacità, questo suo modo di sapersi porre con tutti, di essere amico di tutti. Noi abbiamo, sui manifesti abbiamo scritto amico dei ragazzi fratello, dei ragazzi di strada. Penso che sia un termine che possa identificare al meglio questa persona che è rimasta. E un altro fatto personale per dirvi chi era Valerio Marchi, voi lo sapete sicuramente molto meglio di me. Ricordo un giorno che venni qui in libreria, sempre ho studiato qui a Roma, quindi ormai sono 10 anni che sto qui a Roma, la libreria era un posto che frequentavo per perdere 10 minuti, per distrarmi, per sfogliare i libri, per guardare le fanzine prodotte dagli skin, per guardare le fanzine prodotte dai vari gruppi ultras. E quando venni un giorno gli dissi: hai saputo, Valerio, è uscito un gioco Questo gioco si chiama Hooligans, si gioca a fare la guerra agli altri tifosi. Al che mi rispose: oh, ma che, ma stai scemo, sto gioco, cioè, ma se ci manca solo il gioco, una retinata. La notte mi arriva una telefonata, non sapevo chi era, vabbè, trovo questo numero, mi trovo a passare a San Lorenzo, lo trovo, sopra, fissato a giocare a questo gioco, e mi disse: mamma, sto gioco, che vedi che è. Questo era Valerio Marchi, io me lo voglio ricordare così, felice, allegro. Ancora una volta, poi dopo, purtroppo dopo la sua scomparsa, mi sono reso conto di quello che rappresentava per me e per tutti gli ultras Valerio Marchi. In un periodo particolare della mia vita, quando venni diffidato, 2 anni fa, coincise anche col momento in cui dovevo scrivere la mia tesi di laurea, che appunto ho scritto sul movimento ultras, sulla controcultura ultras, e penso che senza tutti i libri di Valerio Marchi, a partire dalla sindrome di Handicap, passando per Treppa e tutti i derby del bambino morto, non sarei stato assolutamente in grado di scrivere quella tesi. E mi rendo conto che quello che diceva lui già tantissimi anni fa, oggi ancora, ancora attualissimo, perché è stato in grado di anticipare tanti ragionamenti che oggi diciamo facciamo tutti. Quando Valerio Marchi parlava di stadio come laboratorio di sociale di controllo, di repressione, ancora molti non l'ascoltavano, soprattutto ricordando quello che dicevo prima, all'interno della sinistra. Se a Piedigoscia si parla di ultras, vuol dire che qualcosa Valerio Marchi l'ha lasciato, vuol dire che comunque le sue analisi, che tra l'altro vengono da una parte da una visione, diciamo, da un approccio emico, cioè da chi ha partecipato, da chi è stato diretto protagonista della realtà ultras e comunque di tutte le sottoculture giovanili, magari quella skinhead in particolar modo, dall'altra è riuscito a mischiare questo suo approccio, diciamo, dal di dentro con teorie, diciamo, sociologiche, antropologiche, che parlano comunque, che spiegano cos'è una sottocultura. Essenzialmente quella degli ultras, più che essere una vera e propria sottocultura, potrebbe essere considerata un prolungamento della sottocultura, perché da quello che siamo riusciti a capire, anche e soprattutto grazie a questi libri qui che ho citato prima, che comunque essendo cioè, le sottoculture sono abbastanza spontanee, diciamo, vengono essenzialmente, parlano del tempo libero, della musica, mentre la realtà ultras è una cosa che va oltre, perché non si è ultras soltanto la domenica allo stadio, ma si è ultras tutti i giorni, da quando ti svegli la mattina fino a quando, cioè, si è ultras sempre, non solo la domenica. E questo è il carattere, appunto, in questo caso, di una controcultura. Perché? Perché all'interno delle curve vige un potere che potremmo definire contropotere, nel senso che, essendo degli spazi liberi, come diceva prima Andrea, le curve non sono altro che uno spazio sociale occupato dagli ultra, che comunque hanno cercato di liberare, ne diciamo questo verbo, liberare all'interno di un territorio che è monopolizzato dallo Stato e dall'economia, quindi dal calcio moderno, come può essere uno stadio. Hanno creato delle zone libere nelle quali, ad esempio, si può fumare liberamente marijuana, nelle quali comunque si può esprimere una sorta di antagonismo, di contropotere. Ecco, in questo caso, che il discorso sulla controcultura è ancora più, viene spiegato bene, nel momento in cui negli stadi, rappresentando degli spazi permanentemente autonomi, ci vediamo le Team Bay, quando dice spazi temporaneamente autonomi, parlando delle tazze, in questo caso le curve sono delle pazze, non perché siamo pazzi, siamo pazzi, questo è poco ma sicuro, siamo anche pazzi, ma anche e soprattutto perché il carattere diventa permanente, nonostante tutto, nonostante 30 anni di repressione, nonostante tutto quello che è successo, ancora penso che le curve degli stadi rappresentano realmente degli spazi sociali liberati ed antagonisti, al di là dell'opposizione che ci può essere stupida tra destra e sinistra, tra questo e quell'altro. Io parlo, vabbè, vengo da una città come Cosenza, che nonostante veniamo spesso definiti di estrema sinistra, è una città in cui diciamo, l'essenza ultra si mischia con tutte le situazioni del sociale. Cioè, Cosenza è una città dove dal 1978 dagli ultra sono nate delle mense dei poveri, dei dormitori, dei centri sociali, delle radio libere, iniziative a favore dei migranti, dei detenuti, a fianco a chi lotta per la casa. Quindi in questo caso ho potuto vedere realmente come gli ultras hanno, hanno la capacità di riuscire ad interagire con il territorio. Penso che questa sia una caratteristica un po' che si può trovare dovunque. Magari ogni città poi avrà i suoi tratti caratteristici, però essenzialmente l'esperienza che ho vissuto io direttamente nella mia curva e nella mia città mi ha insegnato questo, mi ha insegnato che comunque le lotte sociali più importanti negli anni sono state fatte dagli ultras. Quindi c'è questa forza antagonista, questa carica eversiva. Ho stato essenzialmente il potere costituito, vedendo una così come si può dire, una così forte partecipazione, un così forte antagonismo, impaurito da tutto questo, impaurito che la violenza ultras diventi violenza di classe, arriva ad usare delle forme di repressione assurde. E comunque poi nel corso del tempo abbiamo visto che sono state estese all'intera società. Cioè i gas CS che abbiamo respirato a Genova, noi li respiravamo negli stadi già da tanti anni, dal 1989 addirittura, però nessuno ne parlava, perché comunque rappresentando una categoria indifendibile, questo Valerio Marchi lo diceva e lo scriveva più di una volta, purtroppo siamo sempre abbiamo sempre rappresentato una categoria indifendibile nella quale essenzialmente venivano scaricati tutte le preoccupazioni della classe media. Ecco che lo Stato interviene contro gli ultras non per risolvere realmente il problema della violenza, perché se guardiamo dietro, in 30 anni di repressione, di diffide, di arresti, il problema della violenza si è risolto. No, non si è risolto, perché comunque l'interesse loro non è quello. E poi, come diceva Valerio Marchi, poi lascio la parola perché ci sarà veramente tanto da dire, non mi voglio dilungare, l'obiettivo del potere non è quello di allontanarci dagli stati, l'obiettivo del potere è quello di normalizzare la carica eversiva che hanno gli ultras. E qui, e poi c'è un discorso molto più lungo, magari sulle tecniche di repressione, eccetera, eccetera. Lascio la parola perché so che magari saremo in tanti, al di là degli interventi che sono segnati ufficialmente, sicuramente ci sarà tanta gente che vorrà parlare, perché poi ci sono tante tematiche che ci interessano, come la testa del tifoso e tante altre cose. Grazie. Allora, io sono molto emozionata, ovviamente. Dico subito così se mi impappino qui lo sapete, va bene. Da una parte perché tra i vari interventi che ci sono, io sono l'unica esterna, cioè io non sono né un ultras, e mi sono avvicinata soltanto a questo mondo. E comunque allo stadio in sé, grazie ai libri di Valerio. Se non fosse stato con i libri di Valerio non sarei neanche tornata allo stadio. Se non fossi tornata allo stadio non avrei iniziato a guardare verso la curva e le curve, verso il mondo ultras in un certo modo. E la mia unica, cioè la cosa che mi dispiace di più è che tutto questo processo è avvenuto quando Valerio già non c'era più e quindi non ho avuto assolutamente modo di confrontarmi con lui, e questa è una mancanza che sento anche abbastanza forte nel mio percorso. E, diciamo, io quando il mio riavvicinamento allo stadio grosso modo coincide con la pubblicazione del derby del bambino morto, ovviamente posteriore. E andando allo stadio ho cominciato, cioè avendo sotto gli occhi, guardando da vicino, no? Anche quello che succedeva alla curva, ho cominciato anche a guardare in un altro modo, a usare gli strumenti che Valerio ci ha lasciato, tra cui ovviamente quello di vedere lo stadio come un laboratorio di repressione. C'è una cosa però che io ho faticato molto a capire, venendo dalla sinistra probabilmente, e nonostante i miei percorsi sono stati sempre di vicino al mediattivismo o quantomeno alla ricerca dell'informazione. E Lorenzo questa cosa magari la sa, perché era il mio primo incontro con lui, sono andata a parlare con tanti del bambino morto in mano, e una cosa che alla fine della chiacchierata gli chiedevo era: sì, ma come fanno a stare destra e sinistra insieme dentro una curva? Era una cosa che non riuscivo a capire, in particolare ti chiedevo della trasmissione, ti ricordi? E ci ho messo anche un po' di tempo per capirlo, nonostante fossi anche ben predisposta, avessi una sensibilità particolare. Io credo che se non si capisce che la controcultura ultras è una cosa a parte, dove sì, si possono trovare delle persone, delle soggettività o anche delle strutture che fanno politica in vario modo, ma è una cosa a sé, non si riesce a capire la portata di controcultura e neanche la sua carica conflittuale. Credo che comunque è ovvio che nasce dalla passione nei confronti di una squadra, nasce da quello, ma nasce anche da un innato senso di rivolta e di ribellismo che uno prova nei confronti dei poteri forti, e questo al di là del fatto di essere di destra o di sinistra, e credo che sia una cosa fondamentale soprattutto per la sinistra comprendere questa cosa. Secondo me non si può nemmeno riuscire a capire bene il concetto di Valerio di stadio come laboratorio di repressione se non è chiaro questo passaggio. Perché Valerio questa cosa la spiegava introducendo il ruolo dei Fort Davis, ovvero diciamo, che lui dava a tutti quanti i teppisti. Il Fort Davis lui usa delle categorie della sociologia inglese di Cambridge per dire questa cosa, diciamo che è il catalizzatore di ansia sociale, è il cattivo per antonomasia, quello, il soggetto indifendibile, come diceva prima Marco, che è una cosa che Valerio diceva sempre, da tutti, incluso da chi invece in qualche modo dovrebbe capire la sua carica conflittuale. Questa assenza in qualche modo di appoggio ha fatto in modo che si è visto uno spazio dove si potessero sperimentare tranquillamente forme e tecniche di repressione nuova, perché in mancanza di una voce che si leva a favore di questo movimento e di questa controcultura è ovvio che la si sperimenta. E perché il laboratorio di repressione? Perché immancabilmente le tecniche che vengono usate nello stadio sono le stesse tecniche che noi possiamo rivedere in alcuni altri settori della società. Un esempio su tutti sono i gas CS. Penso che qua tra chi è stato in curva e chi invece ha partecipato a Genova i gas CS li conosce abbastanza bene. Io penso che sia abominevole il fatto di pensare di usarli, a parte di usarli a prescindere, ma pensare di usarli all'interno di una curva chiusa senza vie di fuga. È veramente un obbrobrio a livello di depressione. E questo è. Ritornando al discorso a livello di Fort Davis, no? Di demonizzazione, un esempio su tutti può essere quello di Sunday, no? Nel senso, io ho seguito attentamente come hanno riportato i media quella vicenda nelle immediate ore, e i primi profili che venivano tracciati, no, era del disfidato, del delinquente, eccetera. E la cosa che ha spiazzato è stato capire che veniva da buona famiglia, che in qualche modo, cioè, lavorava, comunque aveva un'istruzione, e non rientrava appunto nella figura, nel ruolo sociale di teppista, di ultrastrattivo. Oppure un'altra cosa, ad esempio il caso di Iotta, no? Che c'è anche abbastanza vicino, dove cioè, la cosa illuminante secondo me è stato l'intervento di Elena Stancanelli, che è una scrittrice che all'indomani, quando le telecamere hanno svelato in realtà il pestaggio da parte della polizia, si chiedeva: ok, ora è stata svelata questa cosa, siamo tutti qua a difendere questo ragazzo, ma se fosse stato un ultras, che differenza ci doveva essere? Perché quel tipo di repressione doveva essere giustificata, e diciamo è questa una parte. C'è una parte del derby del bambino morto, che è proprio l'inizio, che penso che a me, venendo proprio dalla sinistra e dal movimento, un po' stranito alla prima lettura. Ovvero, lui comincia con un parallelismo tra quello che è successo a livello di repressione fuori dall'Olimpico e dentro quella giornata con quello che è accaduto a Genova. E lì per lì mi ha stranito, però effettivamente c'è un passaggio in cui mostra bene la cosa e la radicalizzazione della repressione. lui mette in parallelo le facce di quelli dei distinti sud che scappavano insanguinati dalle manganellate con le facce dei pacifisti, dei vecchietti, delle associazioni che cercavano di scappare dalle manganellate nelle piazze di Genova. E parla della faccia che è propria di chi non solo non ha cercato lo scontro, ma non era minimamente preparato a raccoglierlo, né fisicamente né psicologicamente. E questa secondo me è una radicalizzazione della depressione, cioè il momento in cui la depressione si scatena così violenta, non soltanto sul soggetto che poteva essere o l'ultras della curva o il black bloc a Genova, ma coinvolge tutti quanti quelli che sono intorno, allora c'è qualcosa che sta già cominciando ad allargare. Io ho cominciato a lavorare come giornalista su questo mondo dopo il 2007 e il 2008 e tantissime volte mi sono chiesta cosa avrebbe detto Valerio, come avrebbe letto queste cose, soprattutto penso sicuramente non l'avrebbe scioccato tutto quello che è accaduto dal 2007 in poi, da quello che Andrea nel suo libro chiama l'anno zero, no? E da quello che è stato il decreto Pisano, da quello che è stato il progressivo togliere ogni tipo di strumento di tifo poi, no, all'interno dello stadio, l'introduzione dei biglietti nominali, dei tornelli, fino poi ad arrivare a quella che è la destra del tifoso, che è una cosa su cui ho lavorato abbastanza e credo che sia anche una cosa su cui tutti si dovrebbero fermare un attimo a riflettere, non soltanto perché si tratta di una sfidatura di massa preventiva, no? Che colpisce non soltanto l'ultras in sé, inasprendo una serie di cose, pure con degli obblighi giuridici, anche se sembra che l'aspetto dell'articolo 9 della legge Amato sia in qualche modo stato accantonato, esistono comunque i limiti dei 5 anni per avere i requisiti, ma c'è una, a parte che coniuga i due aspetti, no? Contro cui ha sempre lottato il mondo ultras, ovvero la repressione e la mercificazione del calcio. Del gioco calcio che diventa sempre più spettacolo, sempre più legato a dei livelli economici, e la tessera questo è, perché di fatto è uno strumento economico, è uno strumento economico che tende a introdurre questa che è la categoria del tifoso ufficiale, no? Il tifoso ufficiale è quello che diceva prima Marco, ovvero non si tratta di doverlo togliere dalle curve, ma in qualche modo di andarlo a imbrigliare, no? Rimanere là, cioè alle televisioni e comunque a tutti fa comodo che ci siano le coreografie, che ci sia lo spettacolo, eccetera, ma vorrebbe eliminare quella che è la parte conflittuale. E inoltre lo fa calpestando ogni diritto, cioè dalla limitazione della libertà di spostamento fino a quelli che sono i problemi legati alla privacy. Lo vediamo, cioè Lorenzo pure questa cosa la conosce bene, nel senso che i moduli su cui vengono chieste di firmare per l'introduzione della destra non rispettano minimamente quelle che sono le leggi sulla privacy, né tantomeno la circolare che il garante sulla privacy ha emesso proprio per rispetto all'utilizzo dell'RFID. Quando si tratta di trattare dei dati personali è un segno, cioè nel senso il fatto che non se ne parli, il fatto che non venga messo in chiaro nemmeno quello che si sta facendo, come verranno trattati i dati, vuol dire che no, effettivamente non te ne importa quasi niente del soggetto, non lo consideri minimamente, oltre al fatto che l'introduzione dell'RFID nello stadio è la prima introduzione di massa di questo meccanismo. Penso che più o meno un po' tutti la conoscete, il microchip, non so, cioè, si tratta di un microchip che nasce, è una tecnologia che nasce fondamentalmente per segnare le merci, per controllare gli spostamenti delle merci. E esistono vari tipi di RFID, c'è quella attiva e c'è quella passiva, quella attiva ti permette di essere localizzata sempre, quella passiva no, viene semplicemente attivata quando passa sotto a un lettore apposito. E probabilmente in questo momento è scongiurato il pericolo di geolocalizzazione totale che potrebbe garantire un RFID attivo. Di fatto però questo microchip, questa tecnologia manda dei segnali ogni volta attraverso un sistema di GPRS a un database esterno. In questo database esterno saranno schedati tutti quanti coloro che si faranno la tessera, chi mette le informazioni, chi le controlla, che tipo di profilo c'è di noi, non è dato saperlo, non ce l'hanno voluto dire, non è detto. E questa cosa è pericolosa, cioè ritornando allo stadio come laboratorio di depressione, è pericolosa, perché la prima cosa che mi viene in mente a pensare è una tessera del migrante o dell'immigrato, dove comunque magari si possono mettere impronte digitali o quant'altro, insomma stiamo andando verso un livello di controllo che si prospetta abbastanza sì, anche i passaporti americani sono stati fatti così, cioè è stato introdotto nel trattamento dei dati personali questo chip come misura antiterrorismo post 11 settembre 2001. E secondo me tutti ci dovremmo cominciare a porre delle domande su questo e su dove stiamo andando. È una cosa su cui anche il movimento si dovrebbe anche in qualche modo interrogare. E l'altra cosa che tenevo a dire non è proprio usuale, no, che ci si incontri a San Lorenzo, che è un luogo storico della sinistra antagonista, parlando e incontrando gli ultras. Io credo che il senso di questo incontro non sia quello di dire o di voler aprire una nuova strada o nuovamente un percorso della sinistra che deve andare a fare politica all'interno delle urbe. Tutt'altro, significa dover in qualche modo rendersi conto che si tratta di una controcultura che non è riducibile a nessuno, cioè non semplicemente guardandola con gli occhi della divisione tra ideologie tra destra e sinistra. E questo significa, cioè, raccogliere l'eredità di Valerio da questo punto di vista significa cominciare un attimo a guardarsi da vicino e cercare di capire come la repressione poi si mette in atto sulle varie soggettività che fanno conflitto in strada o comunque in questa società, che si tratti degli ultras o che si tratti del movimento. E poi adesso lascio, perché mi sono dimenticata sicuramente tantissime cose, però penso che quelle a cui tenevo molto di più. Ciao, non ho avuto la fortuna di conoscere direttamente Valerio. L'ho conosciuto soltanto indirettamente attraverso lo studio dei suoi libri e di quello che ci ha lasciato a livello culturale, e per me è stato veramente importantissimo, in quanto Valerio Marchi mi ha fatto capire cosa fosse veramente la cultura ultras e cosa dovessi fare per poter crescere insieme all'interno di questo movimento. Naturalmente per me lui ha insegnato non soltanto a me ma all'intero movimento veramente il cogito ergo sum del fenomeno ultras, scrivendo quella bellissima frase, non ricordo di anni, però a metà degli anni 90, in cui diceva: io sono ultras e sono contro. Questo racchiudeva in tutto quello che era la mentalità ultras all'epoca e quella che è ancora la mentalità ultras, contro ogni cosa. Il fenomeno ultras nasce come un fenomeno antagonista, cioè a tutti gli effetti, inseribile a tutti gli effetti in quelle che sono le controculture e le sottoculture giovanili, e praticamente aveva come matrice di fondo appunto l'essere contraria a tutto il mondo. A quale mondo? A tutto il mondo che si poneva di fronte, cioè il mondo delle società sportive, il mondo del calcio, il mondo della cultura che cercava di farci ingoiare, il mondo della mercificazione, della spettacolarizzazione non soltanto dello sport ma anche degli spazi sociali in cui questo sport andava a riunire un sacco di gente, la mercificazione di un sacco di ragazzi che sono diventati soltanto merce di consumo e delle società di calcio e della società civile tutta, perché il calcio è stato usato come incanalatore affinché si potesse fare breccia all'interno dei movimenti giovanili. Ora, detto questo, Valerio Marchi ci ha insegnato appunto la via che noi dobbiamo continuare a seguire. Tuttavia c'è da dire in termini negativi che questa via, questo antagonismo, questa contrarietà al mondo, a tutto quello che ci veniva propinato oggi come oggi e dopo la morte dell'ispettore Raciti, è venuta meno, perché il fenomeno in un certo senso si è arreso a una repressione, quella del ministero Maroni, si è arreso totalmente, si è arreso nel momento in cui il ministro Maroni ha chiesto l'obbligo di sottoscrivere, di firmare per poter esporre uno striscione, e la maggior parte delle curve italiane si sono adeguate, e questo è stato un male straordinario. Al di là di qualche esempio minimo e di qualche realtà di provincia che è riuscita a resistere, e onore a loro, diciamo. Però la maggior parte delle truppe italiane, c'è da dirlo, si è adeguata a questo discorso, e questo non ha fatto altro che decimarci e ucciderci. Ora, la tessera del tifoso, a quanto pare, a quanto stanno passando gli abbonamenti, la tessera del tifoso, la maggior parte delle tifose italiane la faranno, purtroppo, e questa sarà la fine totale del fenomeno, perché il fenomeno è ovvio che, essendo controculturale e antagonista, nel momento in cui si adegua alle leggi dello Stato, ha finito di essere tale ed è diventato soltanto un fenomeno in mano ai potenti. Siamo messi le società sportive i poteri di turno in termini economici e politici o chiunque sia. Comunque, purtroppo c'è da dire che a partire da questa idea delle cose non bisogna più fare, come è stato fatto in passato, un'apologia del fenomeno ultras, perché l'apologia del fenomeno ultras non ci porta da nessuna parte. Oggi come oggi quello che serve è una critica radicale a tutti gli errori che ha fatto il fenomeno, a tutti gli errori che abbiamo fatto insieme in tutte le piazze italiane, al di là di qualche piazza che appunto può essere salvata, diciamo. Al di là di questo, Valerio Marchi ci lascia in eredità appunto una serie di idee, una serie di iscritti che ci permettono ancora oggi, nonostante questa depressione totale, nonostante tutti si stiano vendendo alle società di calcio per il semplice colore o per il semplice tifo della maglia, che questo è realmente scandaloso, ragazzi, perché essere ultras è tutto tranne che andare allo stadio per tifare esclusivamente per la propria maglia. Essere ultras è essere un fenomeno controculturale, col sangue agli occhi, con i denti di fuori. Questo è essere ultras, non andare a tifare la propria squadra e andare la domenica soltanto a cazzeggiare allo stadio. Questo non è il fenomeno ultras, né tantomeno, e voglio fare una critica anche alla questione politica del fenomeno, si può accettare, va benissimo l'idea di Marchi che lo spazio sociale curva, lo spazio curva fosse un incubatore eterogeneo e trasversale in cui tutte le realtà potessero convivere, ma oggi come oggi, a partire da un'ondata massiccia di estrema destra e di nazifascismo che ritorna, oggi come oggi le curve devono prendere posizione davanti anche ai propri simili, ai propri amici, e cercare di battagliare e odiare quanto più è possibile questa deriva del fenomeno, perché parliamoci chiaro, per quanto possa essere positivo il fatto appunto che lo spazio curva abbia incluso e inglobato tutte le realtà possibili, la convivenza tra estrema destra e mondo libero oggi è improponibile. A me non convince più. Per un'esperienza personale, io ho perso un mio amico, un carissimo amico, Davide Cesare, ucciso da 3 nazifascisti. Io da quella data in poi, se precedentemente riuscivo a convivere con gente dell'altra fazione politica piuttosto che andare allo stadio, benché per andare allo stadio, oggi questa idea io non ce l'ho più. Perciò io la questione politica la metto al di là e avanti a ogni colore che sia la mia bandiera o i colori della mia squadra. Io non tollero più convivenze politiche con l'estrema destra, assolutamente. Inoltre c'è appunto, ed è necessario sottolinearla questa cosa, ragazzi, perché è necessario, un'ondata e un ritorno di nazifascismo che è scandaloso, è veramente, con le nuove ondate migratorie, che sono state le prime ondate migratorie avvenute tra 70 e i primi anni 80, la nuova destra europea ha preso piede, e purtroppo a partire dalla metà degli anni 80 ha preso piede nella maggior parte delle curve italiane. E benché noi possiamo fare un'apologia del nostro fenomeno, per quanto sia bello e abbia potuto esprimere per 40 anni tutte le cose positive che vogliamo, ha espresso anche la merda del nazifascismo, ragazzi. Purtroppo è così, e queste contraddizioni ce le siamo portate dietro, e non possiamo liberarci di queste cose. Io purtroppo non sono molto d'accordo del fatto che bisogna convivere con queste realtà, assolutamente. Io con queste realtà non ci voglio convivere. Perciò io sono disposto a non andare allo stadio, cosa che farò, perché comunque non mi adeguerò alla tessera del tifoso. Sarà una cosa che definirà la mia fine di essere ultras, cioè non ci andrò più allo stadio, come me un sacco di gente, come me un sacco di realtà che non faranno la tessera e non andranno più allo stadio. E il fenomeno, per quanto si può dire, oggi è quasi alla sua fine. A me dispiace dire una cosa del genere, anche perché io ho passato i migliori anni, gli anni 80 e gli anni 90. E per i ragazzini magari è qualcosa di negativo pensare che il fenomeno stia alla frutta, però è evidente e di fatto è così, non possiamo dire diversamente. Cioè il fenomeno oggi, oltre ad essere alla mercé dei capitali, degli investimenti, del capitale, di tutti questi magna frega che ci stanno togliendo l'anima, è anche in preda a una nuova ondata di fascismi che stanno prendendo piede non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Adesso passo la parola avanti, poi avremo modo di riparlare ancora di tutti questi fenomeni, della questione d'Aspo e festa del tifoso. Grazie. innanzitutto grazie a tutti per l'invito. Io sono Lorenzo, chi non mi conosce, sono webmaster di un sito abbastanza conosciuto da Roma, che è serenaluca.org. Innanzitutto parto ringraziando Valerio Marchi, perché leggendo ovviamente i suoi libri ho capito esattamente cosa ero io, perché c'è quella forma di introspezione che in effetti ti consente di veramente di capire nel profondo la tua anima, e lui ha avuto il vantaggio di vivere per strada il fenomeno, di viverlo a livello sociologico, e questo gli ha dato quel quid plumis, quell'elemento in più rispetto ad altri sociologi che pure hanno scritto sul fenomeno, però che non hanno materialmente vissuto, penso ad esempio Antonio Roversi, di cui tutti abbiamo letto il libro, almeno chi è appassionato del fenomeno, che però non ha avuto quegli spunti in più che invece Valerio è riuscito a avere. Personalmente l'ho anche maledetto quando uscì il libro del derby del bambino morto. Io, seguendo nel processo, perché io sono avvocato penalista e seguo moltissimi ragazzi che hanno problemi allo stadio, nel momento in cui è uscito il libro sostanzialmente mi ha scippato l'idea, perché conoscendo perfettamente tutto quello che era accaduto, sia per averlo materialmente vissuto sia per aver difeso i ragazzi, ho detto eccolo lì, mi ha rubato la ringa difensiva, tant'è che avevo pensato addirittura di depositare il libro direttamente al presidente del tribunale, che è inutile che parli, è tutto quanto scritto qui dentro. L'avrei fatto volentieri se non fosse che il processo è ancora in corso e quindi non ho avuto questa possibilità. Detto questo, senz'altro Valerio avrebbe in questi ultimi due anni avuto di che scrivere, perché c'è stata una sterzata enorme sul laboratorio della repressione, che si è condensata ed è venuta a galla appunto sulla testa del titolo, di cui tra poco parleremo. Non è questo forse il luogo per aprire dei contraddittori enormi. La mia visione, senz'altro, del mondo ultras è probabilmente differente da quella che è stata appena esposta, se non altro perché io parto dal concetto che noi, se fossimo delle persone razionali, il calcio non dovremmo seguirlo, almeno il calcio per adesso non dovremmo seguirlo. Però siccome il problema dell'essere tifoso, che non nasce per una scelta di vita fatta a 15 o a 16 anni, che può essere anche politica, nasce dal fatto che tuo papà ti porta sui seggiolini una gradinata a 5 anni, a 4 anni, vedi delle maglie che corrono e ti innamori di un prato verde e della cromaticità della tua maglia che spicca sul campo e capisci subito che qui ti devono fare gol da quella parte e tu non devi subire gol. E quello lì secondo me è il momento in cui nasce l'ultras del futuro. Personalmente anche io ho vissuto gli anni 80, la mia prima presenza in curva allo stadio del 73, la prima presenza in curva del 79, ci sono diverse teste cadute, ormai teste pelate anche qui in mezzo per ragioni principalmente di tacchi, non di moda. Ricordo che all'epoca lo stadio olimpico era pullulare di scritte di ogni tipo, anche a livello politico, di sinistra, di destra. C'era una forma di contrapposizione che però veniva messa da parte in virtù di un valore che ora in effetti non vi è più, ed era il valore della squadra del cuore. In virtù di quel valore si dimenticavano, forse in modo colpevole, non lo nego, ma infatti io rispetto naturalmente l'opinione di chi la pensa diversamente, forse anche in modo colpevole, in modo cieco, veniva dimenticato chi si aveva a fianco, e tutti ricorderemo che c'era una figura come è stato ad esempio il comando Curva Sud, che aveva delle persone che potevano essere di destra e di sinistra, però in quel momento dimenticavano determinati aspetti e facevano il tifo insieme per la squadra. Io personalmente ritengo che essere ultras significa sempre essere super tifosi di una squadra di calcio. Il concetto di ultras per se stesso, se anche lo capisco a livello ribellistico e di ribellione, non mi rispecchia interamente. Io provo proprio un sentimento ancora inestinguibile, ancora irrazionale quando la mia squadra segna un gol, e un dispiacere forte quando lo subisce. Provo un piacere enorme quando la mia tifoseria dà il meglio di sé, e provo dispiacere quando la tifoseria avversaria mi sovrasta. Questo vuol dire che ci possono essere ovviamente dei problemi di natura sociale, di natura politica, ma questo poi comporta a una sorta di autoeliminazione dagli stati, che forse è una sconfitta ancora maggiore di quella di, non dico cercare di convivere, ma quantomeno di riequilibrare. Io sono lieto che oggi ci sia interesse a questo dibattito, perché forse è il momento anche di riequilibrare un pochino le sorti degli stadi, perché se c'è una forma di equilibrio, probabilmente quei valori che sono stati dimenticati, che sono i valori comunque di una squadra calcistica che poi magari può rispecchiare una città e quant'altro, possono ritornare come elemento primario e far dimenticare, se non altro per 90 minuti, delle divisioni. Mi rendo conto perfettamente che è difficilissimo poter passare sopra storie personali e a concetti esattamente politici, però come dicevamo prima, il calcio è un qualcosa di razionale, perché ditemi voi a questo punto che senso ha andare a vedere 11 miliardari in mutande che corrono dietro a un pallone se non è per l'amore sviscerato che proviamo per i nostri colori e anche per il gruppo di appartenenza. Detto questo, qual è il passo ulteriore della repressione? Si è parlato di laboratorio sociale, questo Valerio è stato molto bravo a spiegare, lo sappiamo bene. Gli ultras sono una parte politica assolutamente indifendibile, non hanno qualcuno che li possa rappresentare. Per dire a Genova, al G8, nel momento in cui si verificano qualche cosa, cioè comunque non si riesce a impedire la repressione, però c'è la possibilità di farla venire fuori con tutte le difficoltà del caso, con tutte le difficoltà di ottenere ragione fino in fondo, con tutte le difficoltà di ottenere giustizia per quello che è accaduto. Quello che è accaduto negli stadi negli ultimi 20 anni sono stati dei mini G8 in miniatura che non hanno avuto la fortuna di avere telecamere che abbiano ripreso quello che avveniva e che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Anche lo stesso caso Curiotti, quindi si è parlato, io seguo altri ragazzi, un ragazzo è ancora in carcere nonostante sia assolutamente innocente, gli altri ragazzi si trovano in stato di detenzione, affronteranno un processo e probabilmente una condanna soltanto per non aver avuto la sfortuna di essere stato ripreso in una telecamera. E se devo rimproverare qualcosa, perché poi sono un po' senza peli sulla lingua, magari proprio a, non c'è qui come contraddittore, ma magari a chi è uscito dal carcere per primo, grazie a un filmato ripreso da una persona che stava sul balcone, e quello di non aver speso una parola per chi sapeva perfettamente di essere nella sua situazione per calmare l'altro. Detto questo, due brevi cenni sulla tessera del tifoso senza rischiare di annoiare qualcuno. La tessera del tifoso è probabilmente l'ultimo ingranaggio repressivo che probabilmente può comportare invece più che uno sterminio, forse una rinascita di alcuni valori. Perché per come la vedo io potrà essere uno spartiacque importante tra chi fa e chi è. Personalmente io sono abbonato da 34 anni alla Roma, non rinnoverò l'abbonamento perché non mi farò la tessera del futuro. Questo comporta ovviamente dei sacrifici, perché non è che con questo rinuncio ad andare a vedere la mia squadra, perché come ho detto, qualcosa che sta nel sangue, uno cerca il più possibile di starci attaccato, un po' come la droga, no? Io ricordo una frase che Ludovica forse si ricorderà bene: la Roma è la nostra droga, quindi è difficile staccarsi completamente da un qualcosa che si ha nel sangue, fino a che certamente questo non andrà a travolgere del tutto, non verrà del tutto impedito. La tessera del tifoso è concettualmente da rifiutare, e in questo invece sono assolutamente d'accordo con quanto è stato detto, che una sconfitta, cioè un inizio di sconfitta del mondo ultras è stato quando sono state chieste le autorizzazioni per gli striscioni, perché la tessera del tifoso in buona sostanza è un qualcosa anche ancora di più, cioè si chiede l'autorizzazione alla questura per poter andare allo stadio, perché il concetto dal quale si parte è che ogni persona che va allo stadio è un potenziale soggetto pericoloso e quindi deve essere autorizzato. Quindi personalmente, io parlo a titolo personale, poi ci sarà anche qui qualcuno che magari ha sottovalutato la cosa e ha mandato un fax per far entrare uno striscione, personalmente io ho un mio piccolo striscione che mettevo in tribunatele, da quando hanno chiesto il fax non l'ho fatto rientrare, quando tutto è tornato come prima l'ho fatto rientrare, però non si è mai venuto meno un discorso di principio che non può ovviamente mancare adesso, al di là dei concetti di privacy e quant'altro. La tessera del tifoso è uno strumento bancario che ha lo scopo semplicemente di introdurre delle carte di credito prepagate, grazie alle carte prepagate, con le quali le banche e altri enti economici intendono fare soldi, perché loro che cosa sperano ovviamente? Sperano che 8 milioni di persone si comprino uno strumento bancario che a ogni transazione garantisce 0,50 euro per ogni acquisto che si fa. Quindi Il concetto è solo questo, ovviamente non c'è un problema di sicurezza perché un pezzo di plastica è ovvio che non può garantire la sicurezza, perché non è che se io venga aggredito da un tifoso avversario posso esibire una testa del tifoso per evitare di essere picchiato, così come se la curva sud di Roma, visto che sono di Roma, dovesse farsi politicamente, spero proprio di no, 10.000 teste del tifoso, non è che Napoli-Roma non diventa una partita a rischio. La dimostrazione del fallimento della testa del tifoso è Genoa-Milan, dove i possessori della testa del tifoso del Milan non sono potuti andare allo stadio, così come tutti quanti i tifosi del Genoa. La dimostrazione che l'autorità di polizia è sempre e soltanto l'unica che può dire chi può e chi non può andare al stadio. E questo è un concetto che a priori deve essere rifiutato perché comporta la ricaduta automatica in uno stato di polizia. Del resto la testa del tifoso non è introdotta con una legge dello Stato, si è tornati a periodi molto più bui della nostra storia sotto il profilo delle libertà civili, perché è un sistema con il quale il ministro Maroni non impone con una norma di legge passata al vaglio parlamentare, perché ancora può contare il Parlamento, alle società di fare l'essere del tifoso. Cosa ha fatto? Ha fatto una circolare amministrativa che non ha alcun valore di legge, dicendo in buona sostanza a prefetti e questori, quindi all'autorità di polizia, controllate che le società di calcio facciano come dico io, e cioè che leghino l'abbonamento alla tessera del tifoso e che non si possano vendere i biglietti per il settore ospiti a chi non ha l'essere del tifoso. Se non lo fanno, chiudetevi gli stadi o mettetevi bastoni tra le ruote. E questo qui è un modo ricattatorio ovviamente per le società di calcio che, essendo totalmente immischiate, essendo ormai totalmente prive di valori sociali e sportivi, ma soltanto di valori economici e quindi colluse con la politica, fanno sì che società di calcio, come ad esempio la mia, non sia in grado di poter dire no al ministro Maroni perché si hanno 400 milioni di debiti con Unicredit che è legata a determinate correnti politiche e quindi non si possa dire di no. Questo è il vero problema della destra del tifoso. Del fatto che saranno spartiacque, questo sarà lo spartiacque tra chi comunque non è che muore, tra chi decide una ritirata strategica per vedere quello che accade dicendo no, e poi voglio dire la possibilità di tornare c'è sempre. Il fatto che adesso mi dicano non si può andare nel settore ospiti non vuol dire che non vado in trasferta, se voglio mi compro il biglietto in un altro settore se mi verrà consentito, se non mi verrà consentito non lo farò. Come dire, senza impegno, senza quell'impegno che si aveva in precedenza, però sempre guardando al futuro, perché comunque il calcio non finisce domani, il calcio è sull'orlo del collasso, prima o poi questo sistema capitalistico non potrà che crollare perché è improntato su valori umani e sociali completamente sbagliati, si ripartirà da zero, si ripartirà probabilmente da forme di azionariato popolare, e se non sarà azionariato popolare, perché io spero che le società escano tutte quante dalla borsa, si partirà finalmente in un non credo troppo lungo futuro da una partecipazione sociale dei tifosi e delle vere e proprie città alle proprie squadre cittadine, che adesso purtroppo, soprattutto nelle leghe inferiori, stanno lentamente scomparendo. Ieri è scomparsa ancora un'altra società di Serie C che è il Rimini Calcio, ancora sono fallite società importanti e stanno lentamente morendo tutte quante. Quando questo capiterà forse sarà il momento di ripartire e chi avrà detto di no potrà dire sono stato in grado di farlo, ho combattuto e ho resistito. Grazie. Ciao a tutti, sono Lomino dalla Marbella Ormai. Prima di tutto un saluto a Valerio con cui ho avuto modo di avere diversi incontri, soprattutto diversi scontri, perché io sinceramente con il fattore quando ho fatto il movimento Ultras non ero assolutamente d'accordo, mi ricollego più al discorso che ho fatto questo ragazzo qua. Sono completamente intollerante alla convivenza all'interno delle curve, sono intollerante a tutto ciò che è successo e a tutto ciò che ha portato al degrado delle curve. Mi vorrei ricollegare un momento a quello che ho detto voi prima di fare un discorso. Ad essere tifoso dovrebbe essere lo spartiacque. Capite, spartiacque in questi anni ce l'hanno io, ho 50 anni, 52, quindi ho vissuto la nascita. L'Ultras in Rimini, gli spartiacque ce ne sono i troppi, l'ultimo potrebbe essere stato Sandri, dopo Sandri secondo me era da non entrare più, invece che un giorno, che un mese, che mai, sono entrati tutti, dopo diverse leggi speciali era da non entrare più, ma stare fuori comunque, non abbandonare tutto, eppure non è stato fatto nulla, o è stato fatto finta di fare qualcosa. E quindi sicuramente ad essere tifoso non sarà lo spartiacque, perché il nostro mondo è marcio, inutile che facciamo gli splendidi, belli, perché non è così. Io avendo visto la nascita, mi sento, io per la repressione, per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda l'essere tifoso, sono arrabbiato. Per quanto riguarda gli ultras, la deriva degli ultras, sono a disagio. Io quando vado in giro per l'Italia o sto in curva mi sento a disagio. Io quando vado sugli stadi e vedo gli striscioni appesi mi sento a disagio. Quando vedo i mercanti all'interno delle curve mi sento a disagio. Quando vedo gente in televisione che dice che è stato complicato la prima e quello dopo dice quanto lo deve fare, mi sento a disagio. Non è possibile che un ragazzo di 20 anni dice tanto lo deve fare, ma che deve fare? Questi qui che hanno permesso l'ingresso di personaggi che avallano gli accoltellatori, che avallano i mercanti dentro le curve, che avallano i nazisti, sono stati la rovina, soprattutto la rovina sono i mercanti comunque sia, perché legati a determinate situazioni societarie e politiche hanno fatto del tutto per poter isolare quelli che una volta erano i veri ribelli. Io sinceramente penso che dignità, rispetto e ribellione siano le cose che hanno portato avanti il movimento ultras negli anni. Quando sono venuti a mancare degli ideali fondamentali, tutto è andato alla deriva. È andato alla deriva per colpa nostra, per colpa di tutti. Io sinceramente il mio disagio, sono orgoglioso che lo provate pure voi, sono orgoglioso che lo prova la colpa mia, anche se siamo rimasti in 50 e tutti deboli, perché dentro c'è stato nessuno. Sono orgoglioso che questo disagio lo provano, perché un ragazzo di 20 anni, di 30, che prova questo disagio mio, che ho visto veramente, posso dire avere la fortuna e anche la sfortuna, perché avendo 50 anni non è che siamo una fortuna, insomma, di aver visto e vissuto determinate realtà e determinate situazioni, che questo disagio lo provano pure loro, penso che quello che pensavamo allora forse era giusto. Però quello che pensavamo allora adesso non c'è più. La repressione invece a me dà un istinto di rabbia. A me tutto quello che stanno facendo non è che mi dà un istinto di sottomissione, anzi mi fa arrabbiare ancora di più. Io se devo pensare che devo fare la solamente se devo pensare che devo richiedere a una società di calcio e a una questura che devo attaccare uno striscione che ho attaccato per 30 anni, mi piano, non so che farei, ma pensa se ti devo chiedere il permesso per andare allo stadio, cioè la cosa è inconcepibile, parole fuori, parole fuori. Anzi, noi staremo fuori, credo tutti quanti, ma noi saremo fuori perché noi ci hanno cancellato la naga, però a prescindere saremo fuori, saremo stati fuori anche se non ce l'avano sull'ultima volta come se ne. La repressione sa come funziona, terrorismo mediatico, terrorismo giudiziario, terrorismo amministrativo. Come funziona? Prima sbattono sui giornali come la bestia, come la belva, come il cattivo, come il brutto, poi ti fanno il processo, finalmente ti rovinano, perché ti rovinano la vita, non è che qui giocano tutti, però nessuno sa che poi ti rovinano la vita. E terrorismo amministrativo che ti rovina la vita ancora di più, perché è una cosa che paghi senza aver ricevuto nessuna condanna. Quindi quando cominciano ad arrivare avvisi orali, antiterrorismo, cominciano ad arrivare che c'è un avviso che forse sei indagato per quello. E però non puoi fare né questo. Le tue parole ti hanno già messo sotto condanna e tu non sai nemmeno se verrai un giorno indagato. Però queste cose qui non sono queste nel mondo, queste dovrebbero dare stimolo a chi è, diciamo, un istinto ribelle, dovrebbero dare stimolo per ribellarsi ancora di più. Invece il declino in moto ultra, se dobbiamo fare un'auto, come si può dire, un'autocritica fortissima. Fortissima perché? Perché non si può pensare che intere curve prendano una piega di un certo tipo che sta appresso a 10-20 magnacci. Non è pensabile questo qui, e però purtroppo è successo questo qui. Purtroppo è successo a tutti. C'è stato 10, 20, 30 magnaggi che so quelli che fanno pure i ribelli, poi si atteggiano pure a fare i maravigliosi, i ribelli, invece ci sono specialmente le canzoni che stanno lì apposta a pelle, come apposta a pelle stanno quelli della parte politica, perché la destra, io non sono di sinistra, io sono comunista, giusto per essere chiaro. La destra ci ha visto lungo tanti anni fa e ha fatto determinati ragionamenti. Perché? Prego? Ha fatto, sì, però lui era più propenso a fare una battaglia comune, che non poteva essere comune, perché l'omologazione, le televisioni, certi presidenti, ne parlavamo prima con Lorenzo, l'eventuale Superlega, perché così ci porteranno, giocheranno solo loro, le grandi squadre che hanno sofferto, che non c'era nessuno con l'NBA americana, e questa è la fine. Per noi, tutto di provincia, ma anche per tutti coloro, il portatari di loro sarà la fine, se non è sarà solo per la provincia. Faranno una Superlega, quindi giocheranno solo esclusivamente tra di loro, si guarderanno tra di loro, faranno una marea di belli che faranno sì, e questa sarà la fine del calcio in generale, non della tifoseria, no, la fine della tifoseria abbiamo detto noi. Tutta questa situazione qui dovrebbe darci uno stimolo di rabbia, uno stimolo di ulteriore ribellione e fare le cose giuste. Chi è che ha fatto le cose giuste? Senza avere messo in stile la destra, perché si è appropriata delle curve in un certo modo, e alla fine si è messa contro pure quelli che veramente ci credevano. Alla fine la destra si è messa contro anche quelli che veramente ci credevano dei loro, perché ha fatto di un mercato, di una situazione esclusivamente economica e di voto, perché voi sapete bene alla fine che ha fatto Fini con la curva della Lazio, e alla fine che ha fatto adesso ovviamente questa scema qui Polverini in balconiera. Cioè, sì, ho capito, però io da Terni che vedo la Polverini in balconiera e mi accusano a me di fare politica allo stadio, se permette, insomma, mi sento un po' a disagio. Cioè, la Polverini che ha promesso a me di lavorare il figlio del sindaco della Latina che gli ha chiesto in diretta davanti al canale 5. Cioè, pensa che siamo governati. Ma non perché quell'altro era meglio, insomma, è il pippatore del trans, alla fine non è che stavamo messi meglio, però sì, voglio dire, insomma, quello che spendeva i soldi nostri è una pippa cocaina, insomma, quello qui a già deve andare a rubarsi, se lo fa una botta. Grazie. Va bene, comunque, per finire, sono orgoglioso. Una volta saremmo stati qualche migliaio, ma sono orgoglioso che ancora qualche centinaio di ragazzi hanno voglia di battersi per le libertà. Ciao a tutti, io sono Matteo del Sistema Ideale Venezia Mestre. Innanzitutto ringrazio per l'invito, perché a me come ragazzo del mio gruppo fa veramente piacere poter partecipare a questa manifestazione per Valerio. E questo è un ringraziamento soprattutto a Marco e agli altri ragazzi che gestiscono adesso la libreria e tutti gli organizzatori. Una premessa, voglio fare veramente i complimenti a tutti voi per questi due giorni, ieri e oggi, perché secondo me sono davvero importanti per la figura di Valerio per tanti motivi, soprattutto perché danno la possibilità di ritrovarsi in strada, in un luogo di aggregazione, che parallelamente sono le curve di una volta, l'aggregazione fondamentale, la capacità di poter dare a tutte le persone che hanno conosciuto Valerio negli anni la possibilità di ricordarlo, di sentire delle emozioni, dei sentimenti di sentirlo vivo dentro di loro, ma soprattutto l'occasione a tutti quei ragazzi che non hanno avuto questa fortuna di conoscerlo, di poter capire chi era Valerio, cosa sognava e cosa ci ha regalato tutti quanti. Marco mi aveva chiesto un po' di raccontare come viviamo noi nella nostra città il fenomeno ultra, se così lo si vuole chiamare, e la discussione vedo che comunque ha preso altre righe più importanti, che sono quelle comunque della riflessione della tessera del tifoso e dello stato in cui vive tuttora il movimento ultras. Quindi magari spiego brevemente quello che pensiamo noi e dopo mi allaccio volentieri alle discussioni di Tonino e di Andrea, che mi vedono molta molta sintonia. E io, come gli altri ragazzi del mio gruppo, siamo avvicinati allo stadio e siamo rimasti innamorati del fenomeno ultras, non perché si tifava una squadra di calcio, ma perché all'interno della nostra curva di allora, ed è quello che proviamo a fare nel nostro settore, si respirano altri valori, altri ideali. Noi viviamo di aggregazione, viviamo di libertà, viviamo di autonomia e di dipendenza. E fin quando ci saranno queste cose, ci sarà un motivo per andare a tifare una squadra di calcio, che per noi è una scusa. La squadra di calcio è un mezzo per stare insieme, per vivere, per essere ribelli e vivere in una determinata maniera. Questa per noi è la nostra controcultura. In questo senso, gli ultimi 10-15 anni le cose sono cambiate tantissime. Io mi sono avvicinato, prima Marco raccontava la situazione di Cosenza, che comunque mi rispecchia molto anche la nostra città sul lavoro che gli ultras fanno soprattutto nel campo sociale. Noi non ci vantiamo di grosse cose politiche, anzi forse la nostra tifoseria per quanto riguarda la politica ha fatto ben poco o niente, però per quanto riguarda il campo del sociale pensiamo che sia una delle nostre caratteristiche fondamentali e che ci ha dato la capacità di stare insieme, di essere uniti e di portare avanti progetti sia al nostro interno ma soprattutto dandoci l'occasione di collaborare con altre tifoserie con le quali prima magari ci prendevamo a legnate perché guardavamo soltanto i colori della maglia e dopo ci siamo annusati, come ci piace definire a noi, e abbiamo visto che magari sotto colori diversi si respiravano le stesse passioni, la stessa voglia di libertà e gli stessi ideali. In particolare, che mi piace anche fare riferimento a Valerio per quanto riguarda questa cosa, tu prima descrivevi Valerio, anche come l'ho conosciuto io, come una persona in grado di collegare mondi diversi, culture diverse e fare un po' il trade union della situazione. Persone che hanno questa capacità ce ne sono davvero poche, infatti purtroppo quando vengono a mancare si sente la sofferenza e il fatto che tante persone siano qui a ricordarlo vuol dire proprio questo. Noi nel nostro piccolo abbiamo vissuto nel 2001 la scomparsa di Francesco Romor, che noi tutti chiamiamo il Bae, e un po' aveva questa funzione, era colui che riusciva a risolvere o quelle buone o quelle cattive, ma sempre mettendoci la faccia, qualsiasi situazione, e riusciva a tenere insieme legami molto, molto difficili in una città. E dopo la sua scomparsa abbiamo lanciato un progetto che è stato quello del Stadio del Bae, che è un progetto che ha coinvolto tantissime tifoserie. Per poter parlare di questo progetto voglio, se me lo permettete, fare due parole su chi era Francesco, perché è fondamentale per capire dopo quello che siamo andati a progettare e a costruire. Francesco prima della fusione tra Venezia e Mestre era uno dei leader degli ultras di Venezia, quindi Nero Verdi, e ha vissuto la fusione insieme ai rivali di allora, che poi diventarono i suoi fratelli di qualsiasi battaglia, che furono i Maestrini, e se poco tempo prima si prendevano a bastonate, dopo la fusione hanno iniziato a capire che, proprio come abbiamo capito poi noi, tanti ragazzi, pure da colori diversi, magari la pensano nella stessa maniera, vivono le stesse difficoltà di vita, le stesse difficoltà di riflessione e quant'altro. Quindi da subito questo forte legame d'unione. E Francesco è stata una persona per noi fondamentale in quanto aveva proprio queste capacità. E la sua forza, come i figli degli anni 80 di quel tempo, passarono tutti per, soprattutto da noi nel nord-est, ma comunque in tutta Italia, la droga fece un ruolo fondamentale di quegli anni. Lui fu uno dei pochi, se non l'unico, di quella generazione che fu in grado di uscirne fuori con le proprie gambe, senza comunità, senza nessun altro aiuto esterno, prese e partì, andò in Germania, stesse in Germania per 2 anni e tornò con nuovo con l'esperienza di San Poli, tra l'altro, che fu il primo a portarci delle magliette color marrone con dei teschi che non sapevamo minimamente da dove potessero venire. Nel 2001 il suo sogno era quello di viaggiare in Chiapas al fianco della carovana zapatista, sostenere l'esercito zapatista. Purtroppo la malattia che lui conosceva e combatteva gli ha stroncato la vita proprio prima della partenza, e quindi il sogno di portare il Francesco in Chiapas è continuato con il progetto del BAE. Il progetto del BAE che ha avuto la funzione non tanto di portare e costruire uno stadio di calcio in Chiapas, perché uno stadio di calcio in Chiapas, guardiamoci bene, a cosa serve? A niente. I ragazzi che sono andati con la prima carovana hanno conosciuto gli indios del posto, tra l'altro il villaggio di Guadalupe Tepac era stato occupato da 7 anni dall'esercito messicano, quindi c'era una condizione veramente disumana, e lanciamo questo grande progetto di sostegno soprattutto all'esercito zapatista e alla popolazione indios. E questo mi ricollega per dire che Ultras forse è altro, si parlava di essere conflittuali, di essere di aggregare e quant'altro, ed è proprio questa cucina che è stata per noi la curva, sono stati per noi i gruppi Ultras, ci hanno dato un'esperienza, chiamiamola politica, chiamiamola sociale, che secondo me è stata fondamentale. In pochi anni, grazie all'intervento di più di 100 tifoserie, sono stati raccolti più di 100.000 euro, sono stati costruiti acquedotti, l'erbolarium per costruire le medicine in casa, i depuratori dell'acqua, una casa comune dove si potevano raffrontare le diverse realtà locali. Il progetto è concluso nel 2007 e abbiamo realizzato questo sogno che per Francesco era veramente qualcosa di importante. Ci tenevo a fare 2 parole a riguardo di questo, in quanto il prossimo anno sono 10 anni dalla sua scomparsa e organizzeremo un grande evento per ricordarlo, e saremo molto contenti che chiunque la pensa sotto una determinata maniera potesse partecipare in qualsiasi forma possibile. Tornando a discussioni più attuali, che sicuramente sono più interessanti per la serata e tutti voi, io penso a parlare anche a nome di tutto il mio gruppo, che sicuramente le linee che parlavano Andrea e Tonino sono quelle che rispecchiano anche il nostro modo di essere. In particolar modo la cosa che un po' mi fa rabbia è proprio come il problema della tessera del tifoso adesso sia vissuto da tutti, nel senso che è dovuto proprio intervenire questo problema che tutti ci devono mettere la faccia, perché tutti da quest'estate, quando andranno a abbonarsi, dovranno fare una scelta, e adesso tutti comunque stanno iniziando a ragionare, a trovare forme di ribellione, forme alternative. Ma Tonino ha ragione quando dice che in questi anni di problemi simili, se non più gravi, ce ne sono stati tantissimi altri, e forse era il caso che noi tutti Ultras ci svegliavamo qualche tempo prima. Io sono uno di quelli che nel Movimento Unito non ci ho mai voluto credere, non a scatola chiusa. Ho voluto prima vedere con i miei occhi, sono stato nelle prime manifestazioni di Movimento Ultra, ho voluto vedere che aria si tirava e tutto quanto, per arrivare a una decisione che purtroppo, e lo dico a malincuore, un movimento unito in Italia non ci può essere, perché ci sono realtà diverse, città diverse e modi di vivere lo stadio che sono totalmente differenti. Se dopo vogliamo far credere che ci sono dei problemi che accomunano tutti quanti, io sinceramente per l'esperienza che ho avuto personale, per l'esperienza con la mia città, vi dico che non è assolutamente così. Ci sono realtà e ci sono città o ci sono gruppi all'interno delle stesse tifoserie che subiscono una repressione diversa dagli altri, proprio per il modo di vivere che hanno, il modo che hanno di affrontare lo stadio e quello che fanno in stadio, che idee portano in stadio. E quindi penso di appoggiare in pieno le vostre riflessioni per quanto, per quello che riguarda, che tanta autocritica dovremmo fare per gli anni trascorsi e per tanti problemi che abbiamo forse fatto finta di non vedere, pensando che il bene comune fosse quello numerico, di dire sì, siamo in tanti, siamo in tutta Italia, siamo un movimento incredibile, forse era il caso di guardare più la qualità di quel movimento che non il numero. Adesso ci sarà una persona che leggerà una lettera, vabbè, si commenterà da sola, quindi lasciamo la parola a Lorenzo. Grazie Marco. Un mesiero tanto sto poco, che oggi non mi va tanto di parlare, oggi mi va soltanto di salutare Valerio, e sinceramente mi è molto difficile salutare Valerio senza salutare Roberto. Ciao Valerio e ciao Roberto. Volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti, soprattutto quelli della mia curva, la sud di Roma, a prescindere da tutto. Voglio ringraziare Lorenzo perché il suo intervento mi è piaciuto molto, mi è sembrato l'intervento più di sinistra di tutti. E poi vi leggo una poesia che ho scritto stamattina appena sveglio. Impiccia, imbroglia, compra e rivendi, ascolta, ricconta, impara e insegni, sputa, canta, tossisci e bestemmi, dritta a quel buco li meglio ingegni. Quanto costa il silenzio tuo, Valerio? Costa quanto rinunciaste a te strada? L'ho capito il gioco tuo e del compare, via col vento che per vivere non se paga. E poi voglio dire una cosa soltanto ai ragazzi di sinistra, più giovani che sono venuti qua oggi. Non date retta, non ci sta nessun terzo Reich alle porte in questo paese. Se vi fate valere potete fare quello che cazzo vi pare. Ringraziamo Lorenzo e continuiamo ancora gli interventi, poi ci sarà la possibilità. Ciao a tutte e tutti, io sono Claudio, sono un compagno e sono un tra del Cosenza Calcio. Mi fa piacere che stasera, come quando all'Area Ligato abbiamo inaugurato l'erbolario, dire di essere un compagno e dire di essere un ultra non è più un ossimoro. Queste due cose non entrano in conflitto, questo lo dobbiamo anche a Valerio. E mi fa piacere anche perché da adolescente sono venuto qua migliaia di volte nei cortei e per noi, lo dico senza la piaggeria, senza dover lavare la faccia, San Lorenzo è il tempio della politica, della rivoluzione sociale, dell'intelligenza, il luogo dove incontravamo compagni è una casa. Quando venivamo qua a 16 anni, 17 anni, era un momento di estrema felicità e vedere davanti a me oggi un muro umano al posto dei muri con i quali siamo abituati a fare i conti, le costruire, le galere, gli stadi, niente veramente di allegria. Anche se l'emozione è tanta, perché come diceva bene Manuela, almeno a me sembra di sentirla la voce di Valerio. Ogni volta che venivo qua, la prima tappa era Onda Rossa, la seconda era Valerio. E che mai portava? Che mai portava? Valerio era una spugna, nel senso positivo del termine, a differenza di tanti che hanno il dono della ricerca, dello studio, dell'intelletto, non tratteneva per sé la ricchezza sociale che i movimenti producono, non se la vendeva, non se la metteva in tasca, però non la vendeva nelle università, nei posti dove sono sfruttati organizzando l'intelligenza, la vedova la restituiva a tutti. Mi catturava e mi costringeva a svuotare lo zaino e a dargli, come diceva bene prima Marco, tanto a me segnale di fumo, che questa fanzine che noi produciamo da 23 anni, libri che produceva Marco Senza, materiali, e poi però lo zaino me lo riempiva. Io sono un fortunato, posseggo tutti i libri di Valerio, non ne ho comprato uno, me li ha regalati tutti, compreso l'ultimo, me l'ha mandato a Cosenza e per me è stata una frustata sapere che la sua esistenza era finita improvvisamente, perché eravamo già d'accordo, lui doveva venire giù a presentare il derby del bambino morto, avevamo deciso di farglielo presentare insieme a una donna, perché ci sembrava giusto questo, e una donna, era il sindaco di Cosenza, di cui avete sentito parlare, la Evelina Catizzone, ma non per fare show, ma perché ci interessava questo confronto. Valerio ogni volta che venivo qua mi diceva che amava due slogan dei cosentini. Sapete che noi cosentini e voi romani abbiamo una cosa in comune, che poi può essere una virtù, ma può essere anche una maledizione. Siamo convinti che le nostre città siano rispettivamente l'ombelico del mondo. Ora, per Roma è comprensibile, Cosenza un po' meno, perché un po' decentrata e periferica lo è. E quindi però Valerio quando venivo qua diceva voi siete troppo avanti rispetto a tutto il resto del movimento. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare i capi del comando ultra della curva sud della Roma e gli storici Frick Brothers e la Ternana, l'Olimpo del tifo organizzato. Io avevo 14 anni, nel 1985 a Cosenza sono sceso, e poi di nuovo nel 1986, no? Scusate, ma a parte del mondo ultras è quello di rivendicare la paternità delle cose, proprio non ce la facciamo a stare zitti, dobbiamo sempre dire chi è più bravo a fare una cosa. Noi pensiamo di essere stati i primi ad aver portato un certo tipo di controcultura nel mondo ultra, ad andare in Africa con le missioni estere, a costruire una mensa per i poveri, ad occupare uno spazio sociale uscendo dalla curva. A Cosenza non si poteva essere compagno senza essere ultra e viceversa, mi sembrerà strano questo. E quindi non si poteva essere fascisti e frequentare i luoghi della società. E Valerio diceva che ci invidiava due slogan, uno era, ed è, pipe ai vecchi, acida ai bambini, nuclei sconvolti clandestini, che poi è l'origine del nostro nome, sapete, era uno slogan, se non sbaglio qui Marco e Riccardo ne sanno più di me, potranno confermare o smentire, era l'ala eretica di lotta continua, che si era rotta le scatole di questo verticismo che negava il diritto di farsi le canne ai movimenti, la parte che poi sfociò con Rostagno in una deriva eretica, noi siamo orgogliosi di essere anche molto eretici, e noi prendemmo questo nomignolo e lo portammo avanti per molto tempo, Nuclei Sconvolti, con la foglia, tanto di foglia di marijuana in mezzo. Poi il nostro gruppo si sciolse come tutte le grandi tifoserie organizzate del mondo del tifo italiano. E poi ce n'erano tanti altri, insomma, slogan. Uno in particolare colpiva Valerio, questo dimostra che poi non era così refrattario a un discorso prettamente politico. Fuori i nazisti dalle curve, fuori le curve dagli stadi. Questo è uno striscione che noi esponemmo e che in molte curve ha fatto epoca. Vi racconto questo perché sono d'accordissimo con Manuela, per questo mi complimento con lei, perché in soli 6 anni ha capito molto di più di quanto noi non abbiamo capito in 30 anni. Indicato dalla sua analisi. E Valerio era, diceva bene Marco, un anticipatore, cioè uno che vedeva le cose prima, che le intuiva, aveva il dono di prevedere quello che poi sarebbe accaduto. E infatti tante delle sue intuizioni ce le troviamo in mezzo, ai piedi. Pensiamo al discorso che faceva Manuela sul Fox Devil, no? Sul moral panic. Oggi siamo tutti moral panic, siamo tutti vittime di moral panic, gli attivisti dei movimenti, gli zingari, i migranti, chiunque in questa società venga fuori dalla normalizzazione è tacciato di essere un demonio e come tale giustifica l'apparato securitario che sul quale si regge il governo della paura. Questa cosa Valerio l'ha scritta prima, l'ha intuita prima. E soprattutto ha avuto la capacità, guardate, io sono anni che frequento le aule del movimento, le assemblee, provo a leggere qualcosa della letteratura dei movimenti, il linguaggio della sociologia, sarà anche questa una deriva ultras, io proprio non lo riesco, la sociologia dei movimenti, proprio non riesco a digerirlo, quando leggo una pagina devo subito chiudere, appena vengono fuori 3 o 4 di quelle parole magiche senza le quali sembra quasi di non essere più compagni, mi viene un disgusto, un senso di nausea pesante. Valerio aveva la virtù di narrare e di raccontare, come fa Riccardo, come fa Marco, cioè di raccontare storie, di sviscerarle, prendendo a prestito quei linguaggi senza farsi violentare dai linguaggi della sociologia. Per me è stato veramente un divulgatore, cioè mi ha educato alla comprensione di un linguaggio che non è il mio, ha usato quei termini, quei lessemi, quel lessico per raccontare il mondo ultra e per dire, guardate che, come diceva bene Marco, siamo di fronte a una controcultura, a una sottocultura, a un fenomeno di conflitto sociale. Non sono dei malati col pallone in testa, come spesso molti compagni mi dicevano verso la fine degli anni Ottanta, ma sono dei soggetti che esprimono una conflittualità su un piano veramente esistenziale, ma che è sovversiva, e vanno collocati nella giusta cornice. Dobbiamo essere collocati nella giusta cornice. Ci ha dato dignità a Valerio. Cioè, per me venire a San Lorenzo, dove i compagni della vecchia generazione mi bacchettavano, ma dovete smettere di andare al mondo ultra, perdete il vostro tempo. E trovare Valerio era una folata d'ossigeno. Era un modo per dire, ah, c'è il nostro avvocato qui che dice la sua, cioè, parla con Valerio, cioè, Valerio ha scritto, ed è importante questo fatto, capite bene che io sto facendo un discorso soggettivo, ma può essere esteso a tantissimi altri, giovani e giovanissimi, e giovanissime, perché noi nella nostra curva abbiamo la fortuna di avere tante compagne e tante ragazze che si esprimono e sono ultra, non in funzione del fatto che sono la compagna di Tizio o la fidanzata di Caio, ma che sono ragazze, sono donne, sono ultras, e nessuno manca di rispetto a loro per il fatto di essere qua. Che dire, io ricordo, ti racconto solo questo aneddoto brevemente e poi passo la parola a Valentina. Quando venne a Cosenza, dalla metà degli anni 90, a presentare Fanatics, c'era, eravamo nel Granna, in un centro sociale, anche quella poteva apparire una provocazione, noi portammo il linguaggio della curva in un centro sociale che ho gestito da compagni con la C maiuscola. Valerio cominciò a parlare, c'era in sala un personaggio, un amico, un fratello nostro che molti di voi conoscono, che si chiama Acirchio, in cosentino significa uccello, salvatore. Sempre è stato molto turbolento, un fratello minore con i nervi tesi, di una dolcezza infinita, ma con dei momenti particolari. No? Allora, Acirchio quella sera si mise di fronte a Valerio, durante la discussione, anticipatissima, e rimase a guardarlo, a osservarlo, guardarlo negli occhi per due ore, tant'è che io ero povero preoccupato, adesso farà un esplorare su noi. A un certo punto alza la mano, chiede la parola a Sergio per capire bene, è uno dei ragazzi di vita di Pasolini, Valerio l'avrebbe chiamato un Lampen, un ragazzo che viene dal centro storico, e gli ha detto, minchia vabbè, però sa che ce la capisci tu, eh. Valerio era felice di questo, insomma. Infatti voleva tornare a Cosenza a raccontarci, a presentare gli ultimi suoi lavori. Guardate, mi vengono tante cose in mente, non riesco a dare ordine ai miei pensieri. Vi dico solo che l'altra volta leggevo che il New York Times sta cercando, come li chiamano, community and social media producer, backpack journalist, costruttori di relazioni, relatori sociali. Cioè queste figure, perché noi sappiamo benissimo che il capitalismo c'ha sta capacità di succhiarci il sangue, la vita, l'energia, no? E di succhiarci anche le idee, perché questa è una cosa che abbiamo inventato noi, no? La comunicazione a rete, le reti, le BBS, qua le facevamo quando ancora internet non era nemmeno la mente di Gesù, bene, ci hanno fregato questa, l'hanno messa a valore, questo Valerio è illuminante sulla capacità che, ecco, gli amici e compagni prima parlavano della nazificazione del feticcio ultras, che noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle. E oggi il mondo della comunicazione fa quello che Valerio ha fatto in Shantytown per anni, perché Valerio era un costruttore di relazioni, ineguagliabile per certi versi, aveva questa capacità di mettere in collegamento intelligenze diverse, che è quello che oggi ci manca nei quartieri, nelle piccole e nelle grandi città, nelle periferie. Noi abbiamo bisogno di un ritorno all'oralità, sembrerà un discorso un po' nostalgico il mio, però io avverto questa mancanza, questa necessità del racconto, del fatto di guardarsi negli occhi e di raccontarsi anche delle cazzate, ma di raccontarsi queste cazzate, perché siamo arrivati a un livello di disgregazione preoccupante, veramente preoccupante, fra compagni, nei movimenti. Per chiudere sulla questione dell'ultra, la divulgazione, quindi Valerio come anticipatore di contenuti divulgatori, cosa resta di questo mondo? Dicevano bene loro prima, guarda, anche in questo noi siamo stati un po' anticipatori nelle disgrazie. Ho vissuto le giornate di Genova, l'anno prima, bruciando i tempi, sono stato massacrato di botte dalla Cerere in curva, sono finito due volte in sala operatoria nel giro di un anno, per dire che siamo talmente avanti che si prendevano le porte prima del tempo, e con Gas CS, dicevano bene i compagni di amici, noi ci abbiamo fatto i conti molto prima dei rompimenti, non sappiamo qual è il debito che ancora dobbiamo pagare con questi maledetti arnesi che hanno usato per anni. E a me preoccupa tantissimo non solo i magnacci di cui parlava lui, preoccupa per esempio il gioco da tavolo su Ultra, ma soprattutto quando vedo la PlayStation mi preoccupa quel marchio copyright su alcuni striscioni delle curve storiche. Cioè per ogni copia venduta questi fanno miliardi, porca miseria. Noi abbiamo preso palate, manganellate, galera, rotture di scatole, questi ci hanno fatto miliardi e vanno in giro tra... Non so che lo possono fare, lo possono fare nelle grandi realtà urbane, perché nelle piccole, io sono sicuro che a Cosenza, come a Catanzaro, come a Terni, con tutto il rispetto per chi vive nelle metropoli, sta gente non girerebbe tranquilla o comunque avrebbe grosse difficoltà di accreditarsi, perché ce la fai a rimboscarti quando vivi in una città di 5 milioni di abitanti e sei un infame. È difficile farlo in un buco di culo di paese come quelli in cui viviamo noi, perché tutti i giorni devi incontrare quelle facce. Allora chiudo veramente con una domanda, che mi pongo, che pongo a Marco, perché fra me e lui c'è una... sono molto grato a Marco perché stasera ci ha fatto questo regalo, lui e le compagne e compagni dei Volsci. Esistono ancora gli Ultras, cioè gli Ultras che chiamavano a Cosenza. Oggi Valerio Marchi cosa direbbe, la domanda che si poneva prima, sulla fase attuale del movimento Ultra, dopo Gabriele Sandri, dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 3-4 anni, che cosa rimane della nostra cultura? Nella forbice mercificazione, repressione selvaggia, è rimasto qualcosa di sano? Io, è una domanda provocatoria, forse un po' retorica che mi pongo, ma che me la pongo perché qua stasera ci sono ragazzi che hanno 20 anni, che viaggiano insieme a me la domenica, guardano il Cosenza insieme a me, ma io mi sento il dovere morale, non perché sono il padrino di qualcuno, ma perché non voglio che gli altri finiscano in sala operatoria, in carcere, come è toccato finire a me. Cioè devo dire qualcosa, non posso commettere l'errore che hanno fatto sti infami di mandare la gente allo sbaraglio, di dire voi andate, che io sono qua il segretario del partito Ultras, andate avanti, prendetevi le botte, che io quando sono qui mi prendo la rappresentanza. Io non me la sento di fare. Allora un ragionamento, noi lo facciamo stasera, lo faremo nei prossimi giorni, a proposito vi invitiamo tutti a venire a Cosenza, a Lorica, in fila per queste tre giornate che dedichiamo un altro ultra scomparso che era Ettore, 16, 17, 18 luglio. Perché guardate, su questo siamo tutti d'accordo e non c'è equivoco. La tessera del tifoso non è un accordo commerciale come è stato per gli abbonamenti e per tante altre forme di micro tortura che ci siamo sobbattati negli ultimi anni pur di mantenere viva la cultura e la controcultura ultra. Nel mio codice, nella mia cultura che è imbevuta anche di tanto meridionalismo, il fatto di dire che domenica io posso partire e lui no, però che due domeniche fa tutti e due partivamo insieme, questo qua si chiama infamia. Il fatto di dire io parto perché il poliziotto ha deciso che sono buono e il mio amico, siccome sta antipatico al questore, è cattivo, si chiama infamia. Questo dobbiamo farlo capire ai più giovani, perché qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ci siamo fatti gli abbonamenti nominativi, le impronte digitali, le telecamere ci hanno inquadrato, ci hanno costretto a dire i nostri nomi e cognomi, ce l'hanno fatto di tutti i colori, ma facciamocela sta tessera. No, scusatemi, un cazzo. Cioè, io la tessera del tifoso non me la faccio, a costo di attaccare la sciarpa a fuoco, a costo di portare la curva fuori dagli stadi, perché quella è la nostra vittoria politica, quella che veramente dobbiamo raggiungere. Rompere i coglioni fuori, riprenderci i quartieri, le strade, gli spazi sociali, questo è davvero la nostra fortuna, che se fanno questo da lì, non piaceranno lo pagheranno caro. A termini di conflitto sociale, che sono stati abituati a fare negli ultimi 10 anni, chiudo veramente. Io sono materialista, non credo nell'altra vita, credo che il 70% dei presenti sia d'accordo con me, purtroppo. Qua a fianco a me stasera è un piccolo miracolo però, perché voi sapete che i rapporti tra la curva del Cosenza e quella del Catanzaro non sono mai stati tenui. Per me Totò, Mariano e Emiliano sono dei fratelli non da ora, ma da 10-15 anni, e questo mi ha aiutato molto a crescere, credo anche loro. Però solo il nome di Valerio poteva succedere che nello stesso metro quadrato ci siamo un tra del Cosenza, un tra del Catanzaro e un altro solo che lui amava era Victor Fitz al United. No, mi commuove questa situazione di Claudio Gensaldi perché rispecchia un po' quello che è la realtà di uno strano incontro, di uno strano viaggio che abbiamo fatto insieme in aereo, incontrandoci alla stazione della Mezze Terme fino a Roma. In altri tempi a Catanzaro a Cosenza sarebbe stata una sorta di eresia, c'era un odio eterno, invece poi col tempo, questo avveniva 15 anni fa, ma anche prima, grazie. È prevalso quel senso di proprio di amicizia che deve prevalere anche nelle curve, anche in alcuni casi. Io dico questo perché Valerio era molto, come diceva Claudio, ghiotto, era molto ghiotto, curioso di conoscere gli aneddoti, gli intrecci tra persone delle diverse realtà di curva. Il meridione sicuramente sono delle caratteristiche differenti da quelle che possono rintracciarsi nel centro nord, dove in realtà assume delle caratteristiche un po' diverse, anche per certi aspetti più mature. Ma quello che io sono Antonio, comunque ho fatto parte di Ultra Scatanzaro per tanti anni, poi ho avuto una disavventura nel 2004 ad Arezzo, che era arrestato, poi subì delle torture, fortunatamente mi sono uscito, anche se penalmente no, però ci può stare anche quello. E dicevo che Valerio ricordava sempre di Ultras alla vecchia maniera, e da tanto tempo che ormai non vedo Ultras alla vecchia maniera. Purtroppo devo dirlo questo perché soprattutto nelle grandi realtà accadono delle brutte cose che il mondo Ultras non dovrebbero mai. Vabbè, questo fa parte. D'altra parte Valerio era molto attento soprattutto a conoscere noi che di Catanzaro, per me personalmente è stato un quartiere che mi ha accolto nei primi anni 90 quando ho deciso di fare l'università, di andare via da Catanzaro, e qui trovai molti amici, soprattutto dei punti di riferimento importanti anche dal punto di vista politico, questa via un cuore storico, come diceva appunto Claudio Donisalvo. Che dire, del mondo Ultras in questo momento non riesco molto a dare delle indicazioni ben precise, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro che Valerio avrebbe preferito parlare di Ultras vecchia maniera, e questo accade purtroppo, questo modo di essere Ultras viene conservato, come diceva anche Claudio, più nelle piccole realtà dove ci si conosce, dove si instaurano dei rapporti innanzitutto umani, prima ancora che quasi rapporti burocratici o roba di questo tipo, insomma. Di analisi sono stati molto bravi loro a farle, sinceramente le condivido, anche perché Valerio nei suoi libri, nei suoi studi è stato un precursore e ha avuto il merito di rivelare quello che poi si sarebbe avverato nella realtà, un movimento disgregato, un movimento vittima purtroppo dello Stato, ma vero, il movimento Ultra sarà anche un mio culto a ragionare su se stesso. Insomma, io lascio la parola adesso, ringrazio Marco per l'invito e soprattutto mi fa molto piacere che abbiamo raccolto l'eredità storica e culturale di questo posto. Auguri. Scusate, vi vorrei chiedere un po', mancano ancora un intervento, credo. Vari. No, di quelli ufficiali. Io ci terrei che non ve ne andaste perché abbiamo da farvi ascoltare una lettera che non avete né letto da nessuna parte, che è una lettera scritta da Valerio poco prima di morire. Vorrei, secondo me, è fondamentale che la ascoltate tutte, altrimenti non perde il senso. Allora facciamo leggere, vabbè, questa lettera faceva parte teoricamente di un libro collettivo che doveva essere dedicato al Padata, Roberto Massi, e ce la legge Riccardo Librini, 15. Dunque, questa in apparenza, a quanto ho potuto capire dal materiale che mi è capitato di leggere, è un'assunzione di responsabilità in prima persona, cioè qui dice apertamente a tutto il mondo quello che sentiva e percepiva di se stesso, parla di noi in prima persona e parla degli Ultras, quindi è molto bello, è toccante, io lo leggo volentieri, se mi impappino è perché non ci vedo un cazzo, quindi non vi preoccupate, non è emozione, sono proprio cose fisiche. Noi che ce la comandiamo, ultima ruota del carro sto cazzo. Saremo una arretrata provincia dell'impero, un disastro in politica, economia, cultura, scienza, arte e cose così. Ma per quel che ci riguarda, noi in Europa ce la comandiamo, ovunque e comunque. Qui non si parla di musica pop, rock, punk, di stili spettacolari o di pura, deliziosa perché inutile violenza. Qui si parla di un tarlo che non riesce a farti accontentare del pub distrutto, della curva conquistata, dell'adrenalina che ti pompa un'elettricità che non si trova al mondo. Dentro di noi c'è un grumo di rabbia antica, mai sopita, che ci spinge oltre il limite, oltre il limitato orizzonte della battaglia e ci conduce ineludibilmente alla guerra di classe. Se abbiamo conquistato il continente, se da Lisbona a Mosca, da Copenaghen ad Atene si sgorge in ogni curva il segno della nostra influenza, non è per qualsivoglia feroce imbattibilità, ma perché vi abbiamo portato un modello di conflitto applicabile nei più disparati contesti socio-geografici. Noi siamo stati gli untori di un germe che ha attecchito e proliferato fino ad assurgere ai supremi ranghi di epidemia continentale e di allarme internazionale. Noi siamo stati il peggior dito al culo che potesse capitare al sistema del calcio e alle sue milizie armate. Gli inglesi hanno avuto l'idea, è vero, era sotto gli occhi di tutti, intorno al calcio sono da sempre volate botte da orbi, è bastato affiancare alle partite il tradizionale gioco delle bande di strada ed è nata, come la chiamano loro, la terra scalcio. Tutto ciò che di malevolo, ormai da 3 secoli, si combinavano reciprocamente i ragazzi di Bengal Street e quelli di Nepal Street, entrava a far parte dello spettacolo calcistico, con grande divertimento e partecipazione del resto del pubblico. Come in Handicap, una serie di omini vestiti di nero, col casco a cupola, si incuneava poi nelle mischie, dividendo e allontanando le due fazioni. Le grandi stazioni di snodo, ferroviarie e metro, accantonavano la propria essenza di non luoghi assumendo temporaneamente identità di sapore tribale, ridisegnandosi e ricomponendosi lungo direttrici non più di spostamento fisico, bensì di scontro fisico e quindi di narrazione epica, di steli sigli trasmutati in leggenda, di scale mobili e corridoi che divenivano luogo, compiutamente luogo, di tragiche o eroiche o esilaranti vicende. Detto ciò non c'è molto altro, grandi risse, una mitopoetica vastissima che la Boogaloo Publishing sta progressivamente proponendo in italiano, il fascino ingleseggiante del nome e del luogo. Ma nel giro di 15 anni gli hanno rovesciato sotto gli occhi il social come un pedalino e loro niente, ma un batter di ciglia, una reazione, hanno ruggito. Hanno iniziato a darsi le punte con i cellulari, sempre più distanti dagli stadi. Definitivamente allontanati dal proscenio, di nuovo a picchiarsi nei 4 vicoli blu che collegano Bengal e Nepal Street. Da noi è stata tutt'altra cosa. La voglia di mettere becco nei meccanismi del calcio come in quelli della scuola, dell'università, del lavoro, addirittura della musica e delle merci, ci è sempre risultati irrefrenabili. Almeno quanto l'istintiva antipatia di classe per ogni tipo di istituzione e potere. I public servant di Handicap, se mai sono esistiti, si estinguono sul ciglio delle bianche scogliere di loro. Poche miglia marine, dopo, a Cadice, già schiamano sbirri, estangono e perseguitano e ammazzano poveri cristi sulle tempi dei tempi. Noi siamo nati proprio dall'idea che il gioco del calcio e con esso l'intera nostra esistenza stesse prendendo una brutta piega, sempre più affari e sempre meno passione, e che non avevamo nessuna intenzione di starla a guardare, idealmente a bocca spalancata mentre circolavano la vita sotto il mio aspetto. Così ci siamo tenuti ben stretta l'idea inglese del campionato parallelo, non abbiamo mai rinunciato alla baldoria e alla violenza, ma abbiamo irrorato la felicità del nostro teppismo. Abbiamo irrorato la felicità del nostro teppismo con cisterne di rabbia sociale. Il nostro reciproco cercarci di trovarci in giro per gli stadi d'Italia è esploso in una pratica più complessa e pericolosa che il semplice confrontarsi con gli avversari di turno. Più complessa perché implica il ruolo di unica forma di resistenza alle trasformazioni affaristico-commerciali del sistema calcio. Più pericoloso perché eleva proprio primo e peggior nemico non più l'avversario, ma appunto il sistema stesso. Insomma, tra noi e loro, i cuginetti inglesi, c'è la stessa differenza che passa tra tirare un mattone contro la finestra di un nemico oppure contro la vetrata del commissariato. Da noi, e di seguito un po' ovunque, la scelta della vetrata è stata considerata di certo divertente, ma anche e soprattutto obbligata per quanto ci avveniva attorno, per come venivamo trattati, per il sordo rifiuto ad ogni istanza di democrazia nel calcio e nell'intera società. Nel nostro piccolo abbiamo scelto di combattere. E abbiamo continuato a farlo per decenni, mentre tutto intorno a noi le istanze più radicali, gli sfondamenti dei concerti, gli espropri, le occupazioni, i movimenti conflittuali erano sparendo, oppure languidendosi, Noi siamo rimasti lì, sulla barricata, esempio di irriducibilità per i giovani di tutta Europa. Sarà infantile, ma vedere nei primi anni Ottanta, nel momento del loro maggior fulgore criminale, sempre loro, i cugini curiosi, ricorrere a un look un bel po' made in Italy ci ha dato un poco gusto. Fila, tacchini, robe di cappa, come dire, per essere cattivi e con stile rivolgetevi a noi. Ma il più importante segno noi non li abbiamo lasciati tanto sulle persone, quanto sulle curve del loro insieme, tanto ad aver piegato addirittura lo stereotipo della passione calcistica al nostro gusto. Le grandi coreografie che tanto piacciono anche al sistema calcio, tutto quello che di noi vorrebbero mantenere e strumentalizzare, rappresenta soltanto la punta di un iceberg ben più minaccioso. Dietro lo striscione immenso, la sbandierata, gli effetti coreografici, i fogli bristoli, i tessuti colorati, dietro i tamburi e i megafoni c'è una forma di auto-organizzazione complessa che segna a collaborare, a lavorare uniti e duramente, a sopportare sacrifici e repressioni per uno scopo comune, per un qualcosa che è andato progressivamente assumendo in tutta Europa la funzione principale di agenzia di conflitto divertito. Abbiamo quadrato il cerchio, noi, di sturpare il potere nel suo principale salotto mediatico e al tempo stesso continuare a divertirci, a ubriacarci a farci le canne, ad acchitare, a dare e ricevere botte, ad essere sempre e irrimediabilmente una folla di franti. E per tutto ciò che l'Europa è oggi nostra, e anche dove le scorribande più furibonde appaiono domate, ancora corre sul peggio ed esiste il solito vecchio tarlo, che, esportato, continua per fortuna a non tenere tranquilli i ragazzi. La guerra a calcio moderno non si fermerà, non teniamo mode e repressioni noi, siamo ultra e ce la comandiamo. Io volevo soltanto dire una questione mia personale e rispondere all'amico che ha detto la poesia prima. Vorrei dire soltanto una cosa, non c'è bisogno di vedere campi di concentramenti, uccisioni di massa e eserciti per le città dal passo dell'oca per vedere il nazifascismo rinascere nelle sue forme. Il fascismo è una cosa che si esprime in termini moderni con una sorta di sottigliezza e sta avanzando periodicamente attraverso forme di aggressioni, di omofobia, di aggressioni a compagni che vengono uccisi in mezza Europa attraverso la Lega Nord che con un linguaggio xenofobo e violento non fa altro che violentare chiunque sia straniero, diverso e non appartenga a questa categoria politica. Cioè, io mi metto in guardia soltanto per questa questione qui. Cioè, l'antifascismo deve essere un valore, non perché lo vogliamo fare con una bandiera astratta così, ma perché stanno avanzando nuove forme di fascismi e non c'è bisogno di aspettare il quarto Reich o Hitler da un palazzino che dica il mondo è mio, perché queste cose avvengano, ma stanno avvenendo di fatto attraverso pratiche sottili e giornaliere che stiamo subendo da parte di una politica ufficiale e da parte di movimenti di estrema destra che si stanno infiltrando un po' ovunque e stanno aggredendo i compagni in giro per l'Europa. I morti che ci sono stati gli ultimi tre anni non erano il gioco o la fantasia paranoica di un antifascista per caso, ma erano fatti reali, concreti, sangue che sta scorrendo. Questo è quanto. Vi ringrazio a tutti. Onore a Valerio Marti, sempre. Adesso passiamo la parola a Paolo. Buonasera a tutti ragazzi. Io sono Paolo Foca, insieme a Roberto Matita e Maurizio Zecco rappresentiamo i Fedain. Noi stiamo portando avanti questa battaglia della tessera. Torniamo un attimino indietro, spendiamo due parole prima per Valerio Marti. Intanto vorrei dire che ci ha lasciato un qualcosa Valerio. Innanzitutto ci fa riflettere quanto una persona normale e una persona del popolo riesca a fare cose grandi, riesca a scrivere libri, comunque imporsi contro le istituzioni, formare dei gruppi, quello che noi stiamo facendo in questo periodo è proprio questo, nel senso portiamo avanti quello che ci ha lasciato lui. La tessera del tifoso è l'ennesimo sopruso che le istituzioni ci fanno. dalla divisione delle curve, dai tornelli, no ai megafoni, no ai fumoni, no al materiale coreografico, ci siamo rotti i coglioni. A un certo punto uno deve dire basta, cioè deve lottare per un diritto suo personale. Ragazzi, noi oggi come oggi si lotta sempre meno per i propri diritti. Noi ultras ci siamo rotti il cazzo, vogliamo lottare fino in fondo per difendere i nostri diritti. Questo non è un diritto da ultras, ma è un diritto da cittadino, perché non mi puoi privare di andare allo stadio in quanto sono 30 anni che ci andiamo e cerchiamo sempre da portare folklore e allegria allo stadio. Questo penso che sia la cosa più bella che riusciamo a fare, quando facciamo anche cose per il sociale, per ragazzi che magari sono detenuti, per i difficili, per i terremotati, oppure se ci avete organizzati, non sono solo quelli che vanno a fare i teppisti come tanta gente con i collegamenti crede, ma i gruppi alla fine hanno uno scopo ben preciso: portare avanti una curva che è quella la più bella del mondo, la curva sud, e portarla avanti con dei valori, con dei criteri, con dei principi che non so quanti ci hanno in tutta Italia. Ci sono curve che hanno fatto business del proprio territorio. Noi portiamo avanti da anni la nostra mentalità e sono contento che finalmente tutta la curva sud è entrata in quest'ottica. Vorrei dire che i ragazzi della sud sono meravigliosi, tutti i gruppi mettono del loro per portare avanti questa bella cosa di coerenza e di non speculazione, la prima cosa. Noi porteremo avanti sempre la nostra idea, cercheremo di lottare la testa del tifoso fino all'ultimo. Ci sono delle buone ragioni perché questa tessera non venga abolita e ringrazio l'avvocato Contucci che ci ha accompagnato fino adesso in tutte le riunioni, le manifestazioni e sicuramente andremo avanti con loro e con l'unione che abbiamo creato in Curva Sud. Grazie a tutti ragazzi, buona serata. Ricordo ancora una volta che per parlare di queste tematiche che già Paolo ha detto, come prima Claudio aveva detto, 16, 17, 18 luglio a Lorica in provincia di Cosenza ci sarà il primo raduno della controcultura ultra dedicato ad Ettore, ai fratelli e alle sorelle di Curva scomparsi durante questi anni. Le tematiche saranno essenzialmente la tessera del tifoso e inizieremo a parlare concretamente della vera risposta che si può dare al calcio moderno, che è solo ed unicamente l'azionariato popolare. Ci saranno esperienze da chi direttamente l'ha vissuto, perché a Roma, se non sbaglio, voi avete fatto diversi lavori. Adesso passo la parola ad Antonello da Foggia, che ha da dire delle cose importanti per quanto riguarda l'ennesimo abuso, l'ennesimo attacco repressivo che ha colpito la loro città e un loro compagno di curva, Topazzo. Adesso vi spiegherà lui magari la situazione meglio. Allora, buonasera, io sono Antonello, faccio parte di un gruppo di Ultra del Foggia, della Curva Sud, si chiama Ciurma Nevica, o Ciurma Nevic, dipende dagli accenti che ci diamo ogni volta. Comunque siamo l'unico gruppo di sinistra del panorama ultra sfoggiano. Lo dico perché per alcuni, quando racconto questa storia, la storia di Enzo, di Topazio, che è il nostro fratello, il nostro compagno di curva, per molti questa cosa è importante. io sinceramente non lo vedo come una cosa molto discriminante, come non vedo la sua appartenenza a un gruppo di sinistra come se fosse una cosa discriminante. Comunque, arriviamo comunque, la storia di Enzo e di Topazio è allucinante, è assurda. Al 24 di aprile viene prelevato da casa sua senza nessun motivo e viene portato in carcere. Si viene a sapere dopo alla vigilia di una partita attesa che sarebbe Foggia Pescara. Noi non abbiamo un rapporto molto felice con i pescaresi e quindi ci è sembrato molto strano che la tifoseria avversaria venisse a Foggia, quindi diciamo è una di quelle che vengono definite partite a rischio. Alla vigilia di questa partita a rischio Topazio viene preso e incarcerato. Senza sapere perché, si parla nelle prime ore di un arresto preventivo, poi la cosa viene smentita, si arriva a sapere dopo 3 giorni che Topazio è totalmente isolato in carcere, si arriva a sapere che in realtà sta iniziando a scontare un periodo di detenzione di 3 mesi per non aver messo 9 firme in un periodo di diffida, durante un periodo di diffida che al momento dell'arresto era già scaduto da 2 anni. Topazio era già 2 anni che era ritornato a frequentare la cura, a frequentarla con noi, e dopo 2 anni si è visto arrestare per queste 9 firme non messe. Allora, dopo sono successe subito un po' di cose, innanzitutto cioè, devo dire che tutta la curva del Foggia ci ha dimostrato da subito la più totale solidarietà. Diversa invece è stata la reazione fuori dalla curva. C'è stato un giornale di cittadino che invece ha dato subito addosso, ha dipinto Topazio Enzo come se fosse appunto il lumpen, il mostro dei libri di Valerio. L'ha dipinto subito come una persona non interessata al calcio, ma interessata soltanto a fare a botte, cioè insomma il dipinto classico peggiore e più deleterio che si possa fare di una persona che va alla strada. Noi abbiamo risposto con la solidarietà, abbiamo tappezzato Foggia di striscioni, ovviamente lo abbiamo aiutato per quanto ci fosse possibile, abbiamo aiutato lui in carcere. E, poi c'è stato ovviamente tutto l'inizio del tutto l'iter procedurale, c'è da dire ancora che Enzo sta scontando tutti questi 3 mesi di arresto, li sta scontando in carcere. Non gli è stato concesso non sono stati concessi domiciliari, ma questa è una cosa su cui torniamo dopo, perché è una cosa. Un'altra cosa importante è dire che una volta finiti questi 3 mesi, quindi finirà questo mese qui, quindi finirà a luglio, lui uscirà, poi dovrà affrontare a settembre un altro processo in cui verrà giudicato per le altre firme non messe, 8 firme, per le restanti 8 firme non messe, per cui rischia altri 7 mesi di galera più diverse centinaia di euro di multa. Quindi una cosa spropositata, una condanna spropositata. Ora è successa una cosa allucinante il 24 di giugno, c'è stato il suo avvocato era riuscito ad ottenere a Bari un'udienza al Tribunale di Bari per vedere se Topazio potesse scontare l'ultimo mese di pena, lo potesse scontare ai domiciliari. Come nei film di Al Capone, arriva il cellulare davanti al penitenziario, Topazio viene ammanettato, portato dentro, scortato fino a Bari, ma ovviamente forse il membro più pericoloso della Sacra Corona Unita, entra nell'aula del tribunale con il suo avvocato, il giudice li guarda e gli dice cosa siete venuti a fare? Ho letto il fascicolo, non ho nessuna intenzione di starvi ad ascoltare, Enzo rimane in carcere. Queste sono state le parole del giudice testuali. È un accanimento che io non ho mai sentito, che non si è mai avvenuto una cosa del genere. Ho sentito altre persone, qui abbiamo avuto dei confronti con altre persone, diciamo che anche loro non hanno messo delle firme, però se lo sono sempre tra virgolette calate con un'ammenda pecuniaria, ma mai carcere, mai con un ostracismo tale. E questo è quello che è successo, quindi Topazio Enzo finirà di scontare questi 3 mesi in carcere, il giudice ha deciso così, non ha neanche voluto sentire la difesa. Poi ci sarà il nuovo processo a settembre, tra virgolette, ovviamente questi tre mesi mi sta scontando senza aver, senza nessun processo, visto che veramente preso e portato in galera senza nessun preavviso. Poi ci sarà il processo a settembre, da settembre rischia di starsi in carcere, di stare in carcere per altri sette mesi, poi quando uscirà dovrà poi pagare la multa, tutto quello che ne consegue. Noi, la nostra linea che come gruppo è che dobbiamo far girare il più possibile questa storia, perché ci sembra veramente da romanzo, è veramente quello che sia un accanimento, una persecuzione, ci sembra. Se qualcuno di voi volesse avere solidarietà a Enzo, volesse parlare col gruppo, con ovviamente il gruppo, io sto qui a Roma e studio, però il gruppo ovviamente è giù a Foggia. Il contatto è topazzolibero@gmail.it, contattateci se vi piace, insomma fateci sapere. Il microfono è aperto per chiunque voglia partecipare alla discussione, voglia fare un ricordo di Valerio, qualsiasi cosa. Nessuno vuole intervenire, qualcuno ha qualcosa da dire, siamo qui per interagire. Va bene, passo la parola. Innanzitutto vi ringrazio ancora una volta, sono stati due giorni veramente belli. Passo la parola a Marco che... leggere una cosa che Valerio ha scritto nel 94, ma è proprio breve, in SMV, stile maschio violento. In ogni caso, la sorte delle tribù di giovani maschi subalterni che animeranno le periferie dell'Occidente in quest'ultimo scorcio di millennio è in mano altrui. Fedele alla propria natura di variabile dipendente, la sfera comportamentale dei kid non potrà che assorbire e rielaborare quanto verrà definito altrove, nell'ambito del sistema produttivo, dell'innovazione tecnologica, della trasformazione socio-urbanistica, della politica dei consumi. Per il resto potranno mutare i look, i simboli, le forme più o meno coscienti di antagonismo, ma il senso di conflittualità dei kid verrà sempre mantenuto desto, non dalla propria aggressività, ma dalla cupa e feroce violenza degli ingegneri sociali che operano da sempre intorno al progetto del giovane artificiale. Con 16 anni di anticipo raccontava il presente. Va bene, allora la serata continua con davanti allo spazio sociale 32 c'è lo schermo che potete vedere, c'è un video sul corteo alla destra del tifoso, quindi poi il football, l'intervista a Valerio Marchi e vabbè, tutta un'altra serie di video, immagine lunghissima, dal video sul Sound del Bayer, un video sul Cursi e niente, l'iniziativa continua, noi siamo felicissimi a nome di tutti gli organizzatori, da Pub Sally Brown alla Rush, alla Libreria Internazionale, alla Libreria Zafari, ai Centri Sociali ESC e 32, all'Associazione Culturale 1433, ai negozi, al Stato, a Elvis che sono qui su Piale Bosci, i Zavar Fair e tutti i ragazzi delle curve e delle camminate che sono venuti alla Ronda Rossa che ci ha ospitato, a questa casa con il Vittorio Paolo di Paolo, e ancora si fa parte, e a questo grandissimo cartello, e poi saranno a Palermo, a Catania e davanti a me, a Roberto, a Marco, il fratello, il Sperbasso, Luigi Giuseppe, Pietro Cieco e a Roberto Romani. Ragazzi, non mi fai, mi fai la parte del padre della generazione, quando mi metto in mano io. scusa. Le bottiglie, muori, vediamo, fatte da un sacco dentro la libreria. Grazie, dunque, hai detto il primo, l'hai detto. Ti ha di mettere il manifesto. Thank you. Questo è il 13 e mezzo, ma è sempre il pro. ma tutto registrato, registrato questo qua.